Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Interattori, buongiorno. Saluto salmonato oggi il grande Oscar Giannino. Ma salmonato in che senso, scusa? No, vedo un colore di salmone, non so se è la telecamera. No, ci deve essere qualche filtro. Babba Leo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali. È vero, l'ignoranza domina. Sì, è uscita una ricerca che diceva dell'ignoranza. Siamo il paese degli ignoranti, in cui gli ignoranti però vincono. Ignoranti di successo. Per non dirlo in pubblico, perché in pubblico si dovrebbero scusare con la cenere sulla testa, capisci? Siamo gente che fa una vita chic, malgrado quello che pensate, mi sveglio tutte le mattine alle 4, vengo qua, non riesco neanche a fare il riposino perché devo far fare i compiti a mio figlio. Digiuno è una parola seria che merita rispetto, e qui si salta un pranzo. Io vado al supermercato e voglio solo il prodotto della, e come cose, te lo porti via? Ma come te lo porti via con le mani? Sono problemi miei. Io sarei amico dello scudo, ma tu sei pazzo! Una schifosa puffa! Viva lo Stato che vuole i soldi, che palle! Buongiorno, benvenuti, benvenuti già svegli, si ricomincia lunedì, una grande settimana, storie da raccontare e grandi notizie con noi. Commentarle questa mattina si è appena svegliato Massimo De Manzoni. Buongiorno. Buongiorno. Già sveglio da molto, da pochi minuti, da quanto? Da una mezz'oretta, sono qui che leggo i giornali. Allora, De Manzoni, come sapete, è condirettore della Verità e voglio subito un commento lampo. Lo sapete oggi che è iniziato il digiuno a rotazione di Del Rio, che durerà un giorno? Bella, eh? È la notizia, per me è la notizia del giorno. Anch'io sto facendo un digiuno a rotazione con gli Ussoli. È iniziato stamattina perché ancora non ho fatto colazione. Tecnicamente lo è. Qualche ora di digiuno fa bene a tutti, no? Assolutamente sì. Allora inizia. È una questione di salute più che altro, mi pare. Ma che non vuole infierire De Manzoni su Del Rio, capì? Ci sarà qualche legame segreto? No, nessun legame segreto tra me e Del Rio. È che mi sembra che sia già stato detto tutto su quella la buffonata che sta mettendo in atto Del Rio e tutti gli altri. E invece parliamo delle cose serie, parliamo del motivo per cui lo fanno, che è lui Ussoli, che è questa bandiera che continuamente viene agitata e poi ritirata dalla sinistra in maniera assolutamente schizofrenica. Sì, perché io ho un'opinione quasi opposta, cioè se lo vogliono fare al punto di digiunare mettessero la fiducia. Però iniziamo con le notizie del giorno, poi parliamo con più calma e partiamo dall'addio a un grande, comunque si voglia definire, della televisione. Aldo Biscardi ci ha lasciato. Guardi tutto quello che viene fuori dalla televisione, le affermazioni dei vostri Borsetti o Giulietti della sua trasmissione della settimana scorsa. La prego di rispettare chi ha. Io non li conosco, non li conosco. No, chi dice io non rispetto chi è un professionista di mistificazione, non rispetto chi dice falsità e non rispetto chi le dice a proposito di un gruppo come il mio, che è l'unico tra i grandi gruppi industriali d'Italia a creare ogni anno migliaia di posti di lavoro. Evidentemente, e che continua a crearli e continuerà a crearli in futuro. Mi scusi, evidentemente per lei il pluralismo è un optional. No, il pluralismo è una cosa in cui credo, è un optional il vostro modo di fare televisione. Massimo De Manzoni erano amici poi Biscardi e Berlusconi, però ricevere una telefonata così. Ricordavo io questo sparito, è fantastico. Ti porta nella storia, ricevere una telefonata così. Veramente fantastico. Ah, Biscardi è stato a suo modo un grande, certo. È stato quello che ha cambiato un certo modo di fare televisione in ambito sportivo. E senza dubbio. Però queste cose non sarebbero mai successe. Ce n'è una ancora più bella sul costume. Devi sapere, De Manzoni, che Albano Romina ha detto a Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, che Albano lo ama ancora, e anche lei. Lui mi ama ancora, che ci vuol fare? L'hai detto, Romina, lui ti ama ancora. Io penso di sì, vero? E tu? E tu? Chiedono le signore. Anch'io lo amo ancora. Lo commissionerai un fondo per commentare questa rivelazione? Perché è un po' un termometro dello stato del paese. Si ama, non si ama. È un termometro che ne stiamo parlando, onestamente. È terribile che ne stiamo parlando, un chi se ne frega potrebbe essere successo. E ti ricordi che ci fu il mitico Quo Vado in cui Checco Zalone torna dal suo esilio svedese perché vede che Albano e Romina erano tornati insieme ed era già 10 anni fa. Allora, Civati, sulla poligamia di Pisapia, la nuova parola chiave della politica, poligamo. Consiglio a Pisapia di trovare una relazione stabile, insomma, anche perché sono preoccupato da questa lunghezza, come dire, di preliminari, di questi rapporti prematrimoniali che, come diceva Woody Allen, fanno arrivare tardi ai matrimoni, poi alla cerimonia. Questo Woody Allen era carino, eh? Poligamo, adesso è monogamo con Renzi. Ma lì siamo quasi al livello di Albano Romina qui. buona. No. E allora sentilo Pisapia, dice: non ci interessa un partitino. Allora io dico all'amico Speranza, al compagno Speranza, se questa è la decisione, io dico: io voglio continuare a unire e non a dividere. Come ho sempre detto, come abbiamo sempre detto, non ci interessa un partitino del 3% che faccia solo testimonianza. La 10ª puntata della telenovela, che pensi? È finita o ci saranno nuovi colpisci? Io e te per mestiere ci dobbiamo occupare di politica e quindi anche analizzare tutte queste cose. Ma sai che io ancora non ho capito che cosa sta facendo Pisapia? Io francamente non l'ho capito e dopo la giornata di ieri lo capisco ancora meno. Cosa ci sta a fare Pisapia? Che cosa sta cercando di combinare? Tu l'hai capito, Luca? E no, appunto, per questo lo sentiamo. Però invece andiamo alle cose serie. La grande, grandissima manifestazione unionista a Barcellona. Vargas Llosa, il grande Vargas Llosa, il grande scrittore, ha fatto un discorso spiegando che lui combatte l'idea dei nazionalismi. La pasión puede ser generosa y altruista, pero la pasión puede ser también destructiva y feroz cuando la mueven el fanatismo y el racismo. La passione può essere distruttiva quando la muovono il fanatismo e il razzismo. È incredibile, no? Dopo tutto quello che abbiamo detto, spuntano fuori 1.500.000 catalani che vogliono restare uniti alla Spagna. Anche questo è un incredibile romanzo. Sì, non incredibile, nel senso che era incredibile il contrario, che tutti fossero convinti di quello che stava succedendo, anche perché qui stiamo parlando di cose serie, pesanti, come ha scritto sulla Verità recentemente l'ex magistrato Bruno Tinti che collabora con noi. E queste cose qui avvengono solo col sangue, attenzione, non è una cosa da poco, non esiste un'insurrezione, una separazione, una forma di indipendenza che possa essere concessa per via burocratica, diciamo così. È chiaro che qui c'è una Costituzione che il governo centrale è determinato a far rispettare e un'insorgenza che se va fino alle estreme conseguenze può portare solo i carri armati per le strade, quindi stiamo veramente giocando col fuoco a Barcellona e non era credibile che tutti i catalani fossero compattamente convinti di quello che stava succedendo. E nessuno sa come andrà a finire, secondo me. Sì, no, anche perché la storia ci insegna che le guerre civili in Spagna le fanno sul serio, a differenza che in altri posti, e quindi il rischio è veramente altissimo. Io francamente non so come sia stato possibile infilarsi in un imbuto come questo, ma non vedo francamente come se ne esca con pari dignità. Pensavo, devo dire, per tutta una settimana intera, ho pensato che il re stesse zitto proprio per ritagliarsi un ruolo di mediazione. poi quando ha parlato ha incendiato gli animi ancora di più degli altri, per cui era meglio se avesse taciuto. Senti che cosa divertente, che per gioco Salvini ha detto che è pronto a partecipare alla secessione di Roma Nord a Nemo. Finalmente, complimenti per tutto il discorso stupendo. Senti, vuoi sostenere anche una causa che io sto portando avanti, ovvero il referendum per l'indipendenza di Roma Nord rispetto a quell'accollo di Roma Sud? Io sono d'accordo sull'autonomia di Ostia. Sono solo ricchi a Roma Nord. Sì, e soprattutto gli immigrati li teniamo a Roma Sud. Quasi mi trasferisco. Ti trasferisci? Giù. Quindi anche voi volete diventare autonomi per tornare ricchi? Come Roma Nord. Come Roma Nord. Come. Grazie Matteo, grazie tantissimo. Ce l'ho fatta, grazie Matteo per l'indipendenza di Roma Nord, firmate, grazie. Viva Roma Nord. Roma Nord, per chi non conosca questa geografia elettorale, sono i quartieri più ricchi di Roma, Collina Fleming, cioè sono gli unici in cui nelle ultime elezioni municipali ha vinto il PD. Però è spiritoso Salvini, ormai è così unitario e può scherzare anche sull'indipendenza di Roma, Sì, sì, beh, era un gioco ed è evidente, così come è evidente che non si può accostare quello che sta succedendo in Catalogna ai referendum consultivi che si terranno in Lombardia e in Veneto il 22 ottobre, quindi Salvini se si può permettere di scherzare, senti, a differenza di quello che sta facendo con DJ Mon. Senti, no? Senti Di Battista, che è intervenuto durissimo contro il Rosatellum, e da quando ha fatto un passo indietro, una lezione della politica, è diventato ancora più protagonista, da Lucia Annunziata. Dato che siamo la prima forza politica e che non facciamo mai alleanze e coalizioni da sempre, tirano fuori delle leggi, anche la legge elettorale appunto per le prossime politiche, che premia la coalizione che va contro il Movimento 5 Stelle. E per me questo, io lo dico proprio in maniera proprio leale, per me questi sono colpi di Stato istituzionali. Ma non è che alla fine ritirarsi indietro è il presupposto per diventare numeri uno? Buona osservazione, in effetti alle mani più libere può intervenire in questo modo, mentre Di Maio probabilmente d'ora in poi sarà un po' più irrigimentato e meno capace di interdizione su certe cose. Detto questo, non è che abbia detto proprio una stupidaggine Di Battista, nel senso che è stato quasi esplicito in questi mesi il tentativo di trovare una legge elettorale che in qualche modo circoscrivesse il fenomeno del movimento. E ci sono riusciti, ma non sappiamo se passerà. Allora, grazie a Massimo De Manzoni, lo aspettiamo presto, ci fermiamo un attimo per le strade e poi i già svegli. Facciamo un avvertimento sindacale, è immorale alzarsi a quest'ora. Mattino. I già svegli. Gentile signor Telese, ho molta simpatia per lei, quindi sono felicissima che lei conduca la mattina questo programma. Mi piacerebbe che lei mi desse una spiegazione di questi politici ed altri che stanno facendo lo sciopero della fame. Vorrei sapere, ma perché non lo fanno per argomenti molto più importanti, che serva alla popolazione l'aumento delle pensioni? Buongiorno a tutti. Mamma mia, che voce squillante, che meraviglia, come hai fatto? Mi sono svegliato. Sono già sveglia perché devo accudire tre gatti. Ma che mi sono svegliato a quest'ora solo per stare insieme a voi, quindi ho messo una sveglia, ho fatto il caffè, dopodiché penso che andrò a dormire per un'ora. Voglio dire agli italiani, svegliatevi la mattina perché è bello. Il grande romanzo d'Italia è il romanzo della veglia. Oggi voglio raccontarvi una storia che è iniziata qui venerdì, proprio quando finiva la trasmissione. Io sono uscito, sono andato alla stazione, partivo per Trento e a Trento e alla stazione Termini, in direzione di Trento, su quel treno, ho trovato due ottantenni. Erano due nonne, la nonna di un ragazzo che si chiama Manuel, la signora Mena, e la sua vicina di casa che aveva convinto a seguirla in un viaggio per recuperare questo nipote perduto. E come era stato perduto? Bene, dovete sapere che la signora Mena aveva una figlia giovane con due bambini, morta in un incidente d'auto mentre tornava a casa dal lavoro. E fin qui è una storia drammatica, ma il colpo di scena doveva ancora arrivare. Questa donna con due figli lascia due orfani che rimangono con il padre. Il padre si trasferisce al nord e i due nonni che sono a Roma soffrono questa distanza, ma non perdono le notizie. Dopo pochi anni, incredibile destino, incredibile la vita, si ammala anche il padre e in poco tempo muore, lasciando i due bambini senza famiglia. Sono quasi adolescenti, uno ha 12 anni, l'altro ne ha 8, e la nuova moglie del padre, si chiama Matrigna, chiamiamola così, non si occupa di loro e finiscono in una casa famiglia. Bene, i due nonni da Roma, pensionati, li sostengono, li aiutano, gli mandano vestiti, gli mandano regali, gli mandano i soldi che possono dargli per aiutarli. E uno di loro torna a Roma, l'altro resta su, nella casa famiglia. Poi un bel giorno, all'inizio di quest'estate, quando compie 18 anni, firma, perché può firmare, e scompare. Ecco, immaginate la sofferenza di due nonni di 80 anni che non sanno più niente, non sanno dove è finito, e allora si attaccano al telefono e chiamano i carabinieri, chiamano gli assistenti sociali, non riescono a conoscere nessun dettaglio certo. I carabinieri della stazione di Roma, parlando con i loro colleghi, e meno male che ci sono, della stazione del nord di questa città dove era il ragazzo, raccontano che forse il nipotino più piccolo, oggi 18enne, dorme vicino a una stazione, la stazione di Trento. E allora i due nonni incominciano a leggere e scoprono che questa piazza è molto malfamata, che ci sono bottigliate, scontri, tossicodipendenti. Immaginano il loro nipote che dorme fra i cartoni come un barbone, si preoccupano, si angosciano, chiedono agli assistenti sociali di fare qualcosa, ma gli assistenti sociali dicono no, non è più con noi. Chiedono ai carabinieri di fare qualcosa, ma i carabinieri dicono no, se non commette un reato non possiamo fare nulla. E allora un giorno, in questa casetta di periferia, solo la settimana scorsa, decidono che la nonna andrà a compiere una missione di recupero e ad aiutarla la sua vicina di casa di 83 anni. Ebbene, le incontro, e conosco questa storia perché questa vicina di casa è mia madre, le vedo arrivare a Trento, dove si mettono a girare tutta questa piazza. Le due nonne sono in missione, ma hanno il tempo come in una fiaba, devono prendere il treno e il ritorno alle 5:45. arrivano allora ai pranzo, iniziano a girare e a chiedere ai nigeriani che stanno in un angolo: avete visto Daniel? No, non l'abbiamo visto, non lo conosciamo. E poi chiedono agli altri africani che stanno da un altro angolo della piazza: avete visto Daniel? No, non lo conosciamo. E poi chiedono ai sudamericani: avete visto Daniel? No, niente, nessuno, non si trova. E pian piano questa storia diventa nota a tutti quelli della piazza, finché un ragazzo, un algerino con le cuffiette, dice: ma no, Daniel, Romano. E dico: beh sì, è Romano. E allora dice la nonna: com'è questo Daniel che conosce? Non lo so, è un bel ragazzo. Sì, è un bel ragazzo. E allora è mio nipote. Il ragazzo con le cuffiette scompare. Passa mezz'ora e dopo mezz'ora torna con la stessa bicicletta con cui è andato via quel ragazzo, il nipote che era scomparso. Tutta la piazza inizia a piangere, ad applaudire, perché sono diventati dei personaggi. E il motivo per cui vi racconto questa storia è che mi ha dato una grande iniezione di speranza. Due cose: primo, l'amore, alla fine è una grande energia del mondo e vince. Due, l'amore di una nonna è potentissimo, perché è una donna che è due volte madre. Giornale Radio. Babbaleo.